Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cerci si gira, Cerci prova ad entrare in area di rigore, il suggerimento, Barreto, messo giù a calcio di rigore, concesso da Rizzoli, Cerci si fa parare il rigore da Rosati. Finisce a Firenze, finisce con l'errore di Alessio Cerci dal dischetto, Fiorentina 2, Toro 2. Franco Piantanesa, il nostro dottore, oggi è andata così, un passo indietro, ci eravamo lasciati in questo modo con il Toro, con tutto il mondo granata, con mille paturnie, con la sindrome da Paperino a livelli stratosferici. Molto dopo è arrivata l'estate svedese. Det är 1-0 till Torino FC. Målskytt argentinaren Marcelo Larondo. Det är Nocerino. Där kommer 2-0. Där kommer 2-0. Det är jättefint gjort av Nocerino som hinner upp den bollen och spelar in den. Återigen är det Marcelo Larondo. Det blir en variant och BP står och sover lite grann. Och det är mål igen. Det är mål igen, det är Barreto. Det är fint gjort av Molinaro som smyger upp, och BP inte alls med på den här frisparksvarianten. Stod och funderade på annat och ja, som ni ser, eller som ni såg, tämligen enkelt tar de sig igenom. Och det är... Chi sta parlando? Il Pardo svedese sta parlando, ha raccontato questi tre gol del Torino a Stoccolma. Pierluigi, buongiorno. Prova a dire Marcello Larondo. Marcello Barreto. Barreto faceva ridere. Barreto. Se becchiamo al Barreto, come va? Benissimo, primo agosto, classica terra di mezzo del calcio, ritiri, amichevoli, parole libere, soldi pochissimi per il mercato, quasi niente. Meno un anno fa la Juve prendeva Tevez, il Napoli Higuain, la Fiorentina Mario Gomez. Adesso siamo a De Vrij e siamo a una folla oceana, un paio di terzini dall'Inghilterra prossimi alla pensione. È una folla più o meno oceanica all'aeroporto di Genova ad aspettare Bergessio. Come la vedi? La vedo che la vedi, andiamo in vacanza che è meglio. Sì, esatto. E anche se poi insomma si può riempire giustamente la prima pagina della Gazzetta sognando la Vezzi con un presunto duello fra Juve e Milan, anche se poi c'è tempo fino al 31. Però insomma la Roma ha fatto mercato, insomma questo sicuramente sì, va detto, però che non ci sia una lira, questo mi pare abbastanza evidente. E quindi sai, poi quando ci sono meno soldi ti devi ingegnare con le idee, sì. E con le idee magari conviene muoversi negli ultimi giorni del mercato, perché sai, i prezzi sono un po' più bassi, si possono certo avere delle occasioni, quindi insomma, diciamo, però, il mercato da dominatori è un'altra cosa. Un anno fa parlavamo insieme di un calcio italiano che stava provando a rialzare la testa, di qualche giocatore di buon nome da almeno da mettere in vetrina. Adesso secondo me la Vezza è una bufala, almeno sul fronte Milan, perché chi lo paga? È chiaro che lì non ci sono quattrini. Quanto alla Juventus, vediamo. Se la mia sensazione è che se Vidal ha preso Romulo, se Vidal è davvero in uscita, allora può essere. Intanto la notizia del giorno è che il camerunense Yaya Banana ha firmato con i greci del Platania o Platania, non bisogna dirlo a Tavecchio. No, ecco, è che appunto esattamente la stessa cosa, che se tu sei perfido da questo punto di vista, cioè il fatto io? Che giorni si parli, no, condivido pienamente la battuta, se sta parlando da giorni di questo, un po' perché non c'è altro, ecco, diciamo che se avessimo avuto non lo so, Rune, Cristiano Ronaldo, Messi da comprare, forse l'ha comprato anche nell'Olita Vecchio, perché è anche una logica conseguenza. E no, so, a proposito del mercato, è evidente che ci sono colpi di scorta, no? Cioè, si punta sull'usato, sulle motivazioni di qualcuno, c'è cioè questa idea Fellaini per il Napoli, si prova a puntare su dei giocatori che hanno fallito da qualche parte, che hanno finito in campionati in questo momento superiori, e si prova a rigenerarli. Sì, c'è Osvaldo all'Inter, ho perso il conto delle maglie, mi sembra 9 in 8 anni, giusto? No, 9 in 8 anni. E sono colpi, sono giocatori un po' di ritorno. Mi pare comunque che Iturbe sia il colpo migliore, no, dell'estate fin qui, o no? Beh, Iturbe leggevo ieri che per ora rappresenta il 30% del budget complessivo investito da tutte le 20 squadre di Serie A. Sì. Mi sembrava un po' troppo, non mi ricordo che giornale l'ho letto, però insomma avranno fatto bene i loro conti. Sì. Iturbe è sicuramente il colpo principale, poi ci sono altre situazioni, perché per dirti Quagliarella al Torino secondo me è un grande acquisto, però è ovvio che appunto, oppure quello che farà la Juve eventualmente in caso di cessione di Vidal con i soldi di Vidal sarà qualcosa di importante, e quindi magari ci emozioneremo nell'accogliere dei giocatori di buon livello, però è ovvio che soldi non ce ne sono, quindi alla fine la Roma che sta facendo un mercato. Sai cosa mi ha detto ora Piantanina in interfono? Mi ha detto che non lo sapevo, la Roma è la decima squadra al momento in Europa come spesa sul mercato, tutto compreso. Sì, l'ho visto sempre, credo, non mi ricordo, credo fosse la Gazzetta di ieri, non vorrei dire cose false, non mi ricordo se era la Gazzetta o il Corriere dello Sport, credo fosse la Gazzetta, ma insomma c'era tutta questa statistica, appunto, la Roma è al decimo posto, che lascia pensare, no? Perché complimenti alla Roma che è nella top 10, però insomma che la prima squadra italiana sia al decimo posto in Europa fa capire veramente che in questo momento la capacità di spesa è bassissima, ma del resto qui Berinazzo ci insegna che poi alla fine le spese vanno in linea con quelli che sono i fatturati sono bassi perché non ci sono gli stati di proprietà, perché negli ultimi anni si è vinto poco e quindi anche i premi sono pochi, perché e quindi siamo indietro, e alle grandi tradizionali di Inghilterra e Spagna negli ultimi anni si sono affiancate altre squadre, appunto come il Bayern sicuramente, come il Manchester City, come il Paris Saint Germain, che ci hanno nettamente superato, insomma. Poi c'è anche la congiuntura, perché sicuramente la Juve, che negli ultimi anni è la squadra che ha fatto meglio in Italia, sta facendo per ora un mercato furbo, d'attesa più che d'aggressione. Quindi c'entra anche questo, c'entra anche la congiuntura di questa annata. Vediamo, il mercato finisce il 31 agosto, ma il fatto che ci si muova tardi è un chiaro segno del fatto che non si hanno le possibilità per agire da subito, e quindi si aspetta l'occasione, si aspetta il momento propizio. Sì, l'ultimo giorno con il lancio del contratto oltre il muro del gabbiotto, come quel giorno come dito. Senti, sulla vicenda, sugli ultimi sviluppi invece della vicenda federale, che tu hai ragione, fossero arrivati Messi e Cristiano Ronaldo ne parleremmo di meno, però ne parleremmo comunque, anche perché quello è il versante davvero preoccupante. Poi possiamo chiacchierano amabilmente di mercato finché vogliamo, ma in questo momento il vertice del calcio italiano è distrutto e dice solo un gran casino. Ultimi sviluppi li avrete sentiti o letti, con l'incontro tra i due candidati e il presidente del CONI Malagò, il quale ha preso atto del fatto che i candidati vanno avanti, Tavecchio compreso. Il tuo pensiero su questo qual è? Poi torniamo a parlare. Insomma, Tavecchio sta ricevendo un pressing enorme, c'è stato addirittura l'esposto, la richiesta di sospensione di Tavecchio, che è l'esposto rivolto a Palazzi, cioè, il colloquio con Malagò, la presa di posizione di Renzi. Però tira dritto, eh? Tira dritto, appunto. E quindi non lo so, è vero che fino all'11 è lunga, manca 10 giorni, in 10 giorni possono succedere delle cose, tante ne sono successe in questi 10 giorni, quindi tutto può accadere, ma insomma illudersi, no, Tavecchio poteva fare un gesto che era quello di dire addio, quantomeno di rimettere la candidatura e diciamo spostare la palla in territorio nemico, chiedere scusa, spostare la palla, non l'ha fatto anche perché, come si diceva Bodi l'altro giorno, comunque ha le quattro leghe che sono dalla sua parte, insomma questo è un fatto abbastanza storico, qui razzismo o non razzismo, gaffero o non gaffero, mi pare che qui questa è la sostanza. Mai nella storia era successo che Serie A, Serie B, Lega Pro e dilettanti fossero tutti complessivamente per lo stesso candidato. Quindi stiamo parlando di una candidatura che nasceva veramente bulgara. Adesso questa frase ha creato imbarazzi e sicuramente ho letto appunto che siamo arrivati al 59% di gradimento, che comincia a essere una percentuale quasi quasi a rischio, no? Se Albertini è poco sopra il 30. E vedo lo stallo, nel senso che poi sai, Renzi in questo momento ha altre situazioni. No, ma poi Renzi ha detto non posso parlare perché ci sono queste regole internazionali, per cui se c'è ingerenza la politica ha fatto quello che doveva fare. Cioè Renzi, più che dire che è una candidatura che è stato notato al clamoroso, no sicuro. Sono d'accordo, non è compito suo, non spetta a lui, adesso non è non spetta assolutamente, da questo punto di vista ha ragione da vendere, non spetta a lui, è meglio che non si mischi. Quindi adesso forse Maragò potrebbe essere un po' più quello sì, Maragò perché deve essere molto più duro, no, anche perché come ha scritto oggi Sconcerti, ad esempio, sul Corriere della Sera, in questo momento serve uno che magari esca anche dalle regole, ci metta la faccia, si prenda anche moltissime responsabilità e prenda una decisione eventualmente anche ai confini con il diritto sportivo. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Mi ha fatto molto ridere chi è intervenuto su Twitter dicendo Renzi non ha ancora detto una parola su Tavecchio. Ecco, se io dicessi una parola su Tavecchio nella mia veste di Presidente del Consiglio, l'Italia potrebbe essere squalificata dalle competizioni. Cioè, questo è l'unico modo per non mandare la Juve, la Roma e il Napoli in Champions League. Convocati. Questo è uno dei classici brani che usiamo quando c'è uno show di De Laurentiis, è uno dei tappeti musicali preferiti per gli show di De Laurentiis. Ha detto qualcosa il press? Al ciò i preliminari sono molto importanti. Sono fondamentali, non si arriva all'orgasmo senza il preliminare corretto. E la Champions è sicuramente un'esaltazione meravigliosa. Come sta il Napoli a 20 giorni dai preliminari? Nessuno, nel senso che se tu sei felice di essere a Napoli e di vestire i colori del mare e del cielo, questo azzurro immenso, noi siamo con te. Se per stupidità dei tuoi collaboratori o agenti o soltanto per una questione di sfuriare il pasticciotto per ottenere maggiori prebende, e allora uno ti dice, ragazzino, impara a stare a posto con quelle che sono. Prima dal barbiere, Presidente? Perché? No, per i capelli lunghi, per la folta capigliatura. Quella è una testa da leone, quindi va bene, no? Quindi nel caso... Scusatemi, io presentai come un leone Hitler. Quello ci dovrebbe giocare vicino e Hitler è pelato, così facciamo una compensazione di capelli, no? Può essere abbastanza scherzosamente in linea con la scapigliatura napoletana. Presidente, dicevo, in... De Laurentiis a Radio Kiss, tra erotismo, lirismo, i colori del mare e del cielo, se non li vogliono vestire, Berami ha venduto i capelli, la scapiglia, letteratura anche, i colori del mare e del cielo, Berami venduto, Insigne, ragazzo stai al tuo posto. Quindi... Non è che diciamo complessivamente i contratti col Napoli non sono facilissimi, anche perché De Laurentiis da questo punto di vista è molto avanzato, no? Nel senso che comunque ha tutte queste complessità legate ai diritti d'immagine, giustamente, insomma, ha una visione abbastanza moderna del calciatore e tutto l'indotto che può derivare a un calciatore da un contratto. In più non è esattamente, diciamo, un presidente facile, secondo me. In più ci sono, e questo purtroppo nel passato qualche volta ha contato degli assurdi pregiudizi sulla città di Napoli che girano per il mondo, ogni tanto siamo indignati noi, ecco, da lì ci indigniamo noi veramente nel sentire qualche stupidaggine in giro per il mondo, e quindi questo delle volte complica la vita. Detto questo, detto che il mercato del Napoli fin qui non è stato un mercato, diciamo, dominatore, il mercato del Napoli è un mercato di attesa, sembra il mercato di una squadra che vuole passare questo preliminare e poi magari con la certezza della Champions League si muoverà e farà delle grandi cose. Fellaini, sì, è chiaro che se arriva è un ottimo acquisto, per la dimensione del nostro campionato oggi Fellaini è un top player, se arriva. Tu dici, addirittura? Beh sì, insomma è un acquisto, cioè, è uno di quelli, è uno di quelli che si devono, è uno di quelli di valore, e anche aveva una buona quotazione, è chiaro che si deve rilanciare. Oh, Pier, salutiamo insieme il presidente del Toro? Certo, facciamo anche i complimenti, non so se i preliminari mi diano le stesse emozioni che date a voi. Presidente Cairo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Ma De Laurentiis, lui è colorito, lui è un uomo di spettacolo, per cui ovviamente ci mette delle cose in più. Sì, senza il preliminare non si arriva all'orgasmo, insomma, queste cose qui ci ha messo. Però insomma, ieri senza arrivare all'orgasmo, insomma, è andata bene, dai, per un preliminare. Sì, no, bene, bene, bene. Diciamo che la partita è una partita di quelle, in qualche modo, sono partite che appaiono magari facili e poi in realtà possono essere più complicate, perché comunque sia la squadra svedese, Bromma stava giocando in campionato da 16 partite e comunque sia, insomma, hanno quindi sono molto più allenati, molto più in forma, e poi comunque, insomma, sono sempre quelle partite dove se sottovaluti rischi di fare brutte figure, per cui insomma credo che sia stata una buona partita giocata con molta attenzione e con molta anche voglia di vincerla, e quindi bene. Cioè, a quest'ora della stagione il massimo possibile, io credo, presidente. Lei sa che ci sono già almeno 15 messaggi di tifosi Granata e sa benissimo che cosa vogliono chiederle. Ah no, non saprei. Cerci. Ah sì, vabbè, ma quello lì è un messaggio ormai. Abbiamo parlato talmente tanto. Sono preoccupati però i ragazzi. Prendete quello che ha detto De Laurentiis prima. Non sa che cosa ha detto De Laurentiis? Se qualche giocatore. Ah sì, no, sì. Non vuole vestire i colori del mare e del cielo. Io non ho la maglia colore del mare e del cielo, però insomma comunque sia. Colore del cuore. Esatto, bravo, è un rosso vivo. No, ma adesso a parte gli scherzi, l'abbiamo detto tante volte, qui il tema di Cerci è un tema facile, nel senso che è un giocatore che se ha la piacere di rimanere al Torino, io sono il primo a volerlo tenere, e con me tutti gli altri, l'allenatore e tutta la società. Se poi dopodiché lui invece ha voglie diverse, quindi diventa più difficile, e non è opportuno tenere un giocatore così importante non così motivato, per cui si tratta di vedere lui come la pensa alla fine e poi decidere al meglio, insomma, ecco, questo è un po' quanto. Presidente, al di là ovviamente del valore relativo agli avversari, però mi sembra ieri che sia stato il giusto approccio alla competizione, siccome spesso abbiamo visto negli ultimi anni squadre italiane un po' snobbare l'Europa League, lei che input ha dato ai suoi ragazzi? Cioè, è possibile che il Torino possa vivere l'Europa League come un vero territorio di conquista per riprendersi un certo tipo di immagine internazionale, e che insomma qualche volta addirittura il turnover possa essere fatto in campionato per andare avanti in Europa, oppure è un eccesso? No, direi che secondo me noi dobbiamo prendere molto sul serio l'Europa League, impegnandoci al massimo, cercando di avere una squadra con delle buonissime, con una rosa ampia, dove non si sentano, diciamo, i cambiamenti tra un giocatore e l'altro, se possibile. Non è facile, ma non è un obiettivo. Qui secondo me vale molto l'impianto anche di gioco e di squadra, quindi molte volte i giocatori li cambi, però senti magari meno l'impatto del cambiamento. Quindi io credo che sia molto importante per noi affrontare la competizione con un impegno assoluto, il che non vuol dire che devi trascurare il campionato, che è altrettanto importante, non voglio dire anzi di più, ma insomma il campionato è alla fine la base da cui tutto discende, no? Per cui l'impegno deve essere massimo in entrambe le competizioni e credo che questi giocatori lo sappiano bene, lo vogliono anche loro, perché poi anche per loro è una grande vetrina l'essere in Europa League, se poi andremo avanti ai gironi è ancora di più. Questo è certo. Quindi insomma ovviamente per loro è un appuntamento, e poi anche un'esperienza giocare in campo internazionale. Certamente. No, ma questo è fondamentale, perché l'input arriva dalle società. Negli ultimi anni abbiamo visto molti club che insomma non affrontavano, secondo me, ma ultima la Juventus, a mio parere, non affrontavano l'Europa League con i giusti input da parte del vertice, quindi questo è estremamente importante. Mi sembra che il Torino, al quale ovviamente auguro di andare in Champions League, di fare quello che è possibile, però insomma per il tipo di classifica e di valutazione di organico che ha, mi sembra proprio nella situazione ideale per poter ovviamente fare un campionato tranquillo, senza rischi, Presidente, tocchi tutto il ferro che vuole. Tocco. Ma ecco, non avevo dubbi. Però appunto per questo, cioè, mi sembra nella condizione ideale per pensare veramente all'Europa, perché può essere veramente una vetrina nella quale mettersi in evidenza. Oltretutto l'Europa League non dà gli introiti della Champions, questo è certo, ma comunque qualcosa ti dà fra premi e ovviamente incassi, certo, e soprattutto certo. può contribuire al valore dei giocatori, cioè i giocatori una volta che si mettono in evidenza in Europa poi acquisiscono un valore anche in caso di eventuale cessione. Ma poi è una crescita generale, credo che sia una cosa positiva, perché rappresenta una crescita generale dei giocatori, dei calciatori, della società, del tecnico, di tutti quanti. Certo. Per cui è un passo avanti importante in un percorso che abbiamo cominciato 3 anni fa, che ha avuto dei buoni step successivi con dei miglioramenti notevoli dalla B alla A, e poi un campionato buono come lo scorso anno, arrivando insomma in posizioni molto importanti. Quest'anno l'Europa League, quindi dobbiamo essere assolutamente rispettosi e orgogliosi di dove siamo e cercare di fare veramente il meglio possibile. Presidente, un'ultima cosa che le chiediamo riguarda ovviamente l'altro fronte, quello federale. Tavecchio non ha ritirato la sua candidatura, ieri questo colloquio con Malagò. Io e Pardo dicevamo, insomma, magari ci aspettavamo un po' più di decisione da parte del presidente del CONI, non certo del Premier, per i motivi che sappiamo, che sono corretti dal mio punto di vista. La sua sensazione dopo questi incontri qual è? Ma adesso io non ho notizie di prima mano, in quanto non ho parlato direttamente con nessuno questa mattina. Diciamo che qua adesso si tratta di capire bene, vedo che Tavecchio va avanti. Ad andare avanti, però chiaramente vedo che un po' l'appoggio gli sta mancando. Io poi dico, al di là di Tavecchio o non Tavecchio, secondo me qui il tema vero è che non è logico e non è giusto che la Lega Dilettanti, con tutto il rispetto per il movimento e le tante persone che ci lavorano e tanti che ci giocano nella Lega Dilettanti, ma non è logico che Lega Dilettanti e Pro sole possano eleggere anche diciamo con una Serie A contraria, e poi io non so a quante squadre arriveremo a favore di Tavecchio della Serie A. Oggi sono già, mi pare, in opposizione, credo 8-9. Lei pensa che quest'onda, voi avete tirato l'appoggio, sì. Questo va ricordato, che quest'onda di dissenso a livello di Serie A possa crescere nei confronti di Tavecchio, cioè pensa che sia un contagio che da qui all'11 agosto continuerà? Sicuramente è molto cresciuta dalle due squadre che erano praticamente addirittura astenute nella candidatura di Tavecchio, cui io miro anch'io ho appoggiato questa candidatura. Poi da allora invece c'è stato uno smontamento continuo, anche noi abbiamo ritirato l'appoggio, e come noi tanti altri, dalla Fiorentina, le Goggi del Cagliari, piuttosto che il Sassuolo, piuttosto che mi pare la Sampdoria, forse anche il Cesena, l'Empoli, insomma se uno fa la somma, no, sono un buon numero di società. Cioè, praticamente non ho capito male, al di là dei numeri, se la Serie A dovesse voltare definitivamente le spalle a Tavecchio, sarebbe abbastanza surreale eleggere un presidente federale in questa situazione. no? E comunque comincia a essere una Serie A, diciamo, non più compatta, direi quasi spaccata in due, dove quindi non è una Serie A in appoggio, quindi anche questo secondo me va tenuto in conto. Ah, certamente. Io lo dico perché qui, al di là di Tavecchio, qui il tema vero adesso è proprio anche di tipo di governance generale. Non è giusto e non è logico che diciamo con l'appoggio semplicemente di dilettanti 34% e Lega Pro 17% si possa eleggere un presidente. Credo che non sia il modo giusto. Io credo che il sistema vada riformato in maniera anche veloce, perché il calcio italiano oggi è in grave ritardo. Ieri abbiamo disputato una partita in questo stadio, il Tele2 Arena, stadio bellissimo, di dimensioni importanti, che addirittura quasi viene utilizzato poco in Svezia, per dirne una, cioè hanno delle strutture incredibili, per cui secondo me il calcio italiano adesso deve fare dei passi avanti notevoli, e senza le riforme e senza, diciamo, come dire, il giusto modo di governarlo non è certamente facile, per cui certo. E questo va anche al di là di Tavecchio, è proprio un fatto più generale. Sì, sì, no, ma ragione, certamente va al di là di Tavecchio. Il problema è che non è l'uomo giusto per adottare questi provvedimenti necessari. Presidente, la ringrazio molto. Grazie davvero. Benissimo, Presidente, grazie Cairo. A voi presto. Grazie anche a mio amico Pierluigi Pardo. Buone vacanze, Piera. Volevo dire due cose in 25 secondi, che sono stato benissimo, ci siamo divertiti molto e oggi finisce la settimana, adesso andiamo in vacanza, ma insomma, speriamo di tornare a breve, e grazie a tutti, insomma, quelli che hanno scritto, hanno telefonato. Mi sembra che ci siamo divertiti, no? Che dici, Genta? Ma cosa vuoi che dica? Che ti aspetto? Ti aspetto qui. Io magari non ci vado, ti aspetto qui. Capuano, Piantanina, tutti gli altri, Roberto Scaltrini, adesso non mi far dimenticare dei nomi, ecco, però insomma, dopo un anno non mi ricordo ancora il numero di telefono, quello dei messaggi, e questo insomma è un questo è preoccupante. Allora ci vediamo presto, ci sentiamo presto, ci vediamo presto, teniamoci in contatto, Pierluigi. Va bene. Ti vogliamo tanto bene. Vuoi, direbbe Giampiero. Ti vogliamo tanto bene. Ciao Pierluigi. Ciao. A prestissimo Pierluigi Pardo. Siamo in ritardo sulla borsa, me ne scuso, ma insomma, Presidente Cairo stava dicendo cose importanti. Borsa. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Allora, prima di convocarvi sul serio 800240024 e di sentire la vostra voce, e mentre, lo ripeto, notizia di mercato del giorno, camerunese Yaya Banana ha firmato con i greci del Platania, e non bisogna dirlo a Tavecchio, ieri è stato presentato Patrice Evra alla Juventus e ha detto anche questo. Razzismo c'è. È difficile da combattere, io ho già avuto qualche problema. Per me è un po' il razzismo e un po' l'ignoranza. Cioè, io non mi fermo su questo, sono un umano, non sono nero, non sono bianco, non sono giallo, sono un essere umano. A parte di questo, cioè, io sono un uomo felice, dopo si c'è della gente che vivano ancora quel razzismo, non è il mio problema. Evra, come sappiamo, i suoi problemi con Suarez, il solito Luis Suarez, li ha avuti, si è beccato del negro per 7 volte nel corso della partita da Suarez, che poi ha scontato le canoniche 8 volte, 8 giornate, sì. 7 insulti, 8 giornate, mi dice Piantanida, sì, certo, 7 insulti e 8 giornate di squalifica per il solito Suarez. Tempo di presentazioni anche in Germania, dove ha parlato Ciro Immobile, pensieri in libertà, compreso il fatto che meglio qui che alla Juventus. Per quanto riguarda la Juventus, la società ha fatto delle scelte, io le ho accettate, ma le ho accettate in maniera positiva, perché avevo troppa voglia di venire al Borussia e sinceramente mi è interessato poco di quello che pensavano loro. Volevo solo raggiungere il mio obiettivo, che era quello di venire qua. E domani alle 19 in terra americana c'è l'Inter che sfida la Roma. Dodò con la maglia nerazzurra, che dopo pochi giorni appunto incontra per strada, sulle strade americane, il suo passato. Ti fa effetto incontrare tra poche ore la Roma? pochino sì, così presto è un po' strano, no? Sarebbe come vedere un ex fidanzato con un altro subito quando ti sei lasciato, quindi sicuramente è una sensazione strana. Dipende da come ti sei lasciato però con la fidanzata. Comunque sia, penso che ti faccia una brutta sensazione, no, all'inizio, però meglio che sia così presto, così quando lo affronteremo in campionato sarò già abituato e pronto. La fidanzata è ovviamente la Roma e l'altro può essere Ashley Cole, che ha preso il posto di Dodò sulla fascia che fu sua. Alberto Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifosissimo del Toro, innanzitutto grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo dire questo, beh, io ero uno di quelli che 20 anni fa ero in curva a vedere, a soffrire per quel gol maledetto di quel giocatore di Jonk, se non ricordo male, dell'Ajax. Ma senta, io volevo mettere in evidenza soprattutto la qualità di Ventura, perché lui è grazie a lui che siamo qua, sì. Parlare di nuovo di Europa, cioè io credo che tutti quelli del Toro sappiamo che gli allenatori ne sono passati tanti, sì. Ma Ventura innanzitutto è riuscito in un record, perché da tanti, Cairo si è fermato con Ventura e poi è veramente bravo. E qui volevo sapere lei cosa ne pensa di Giampiero Ventura. Che è un grandissimo allenatore, è un eccellente allenatore, che probabilmente ha trovato la sua dimensione giusta, ma anche i giocatori giusti, perché poi è molto difficile fare delle graduatorie. È vero, è riuscita a valorizzare in maniera estrema dei giocatori in cui credeva. Cerci è sempre stato un suo pallino, un suo uomo. Probabilmente sa toccare le corde giuste in Cerci, che talento ce l'ha sempre avuto, la bizzarria pure. È chiaro che adesso è un uomo mercato, abbiamo sentito cosa ha detto prima Cairo, vediamo cosa decide di fare, vediamo quali offerte arriveranno, perché delle offerte per Cerci arriveranno. Il Torino è, diciamo che era una buona squadra, una buona stoffa, per usare un'immagine che usò un giorno Berlusconi, che è finita in mano al sarto giusto. Questo è il mio pensiero. Cristina, Roma, buongiorno. Buongiorno, buona trasmissione. Mi volevo un attimo ricollegare al discorso delle elezioni presidenziali, sì, della Federcalcio. Dunque, giustamente siamo stati tutti questi giorni a sottolineare la frase molto più infelice di Tavecchio sulle banane, eccetera. E a mio giudizio, visto che la forma è sostanza, sarebbe stato anche un buon motivo per ritirare la sua candidatura. E noi l'abbiamo detto molte volte in questi giorni, abbiamo detto queste stesse, esatto, cose molte volte. Non ci fosse soltanto il discorso delle banane, leggo che il signor Tavecchio ha ricevuto più di un anno di condanna per evasione fiscale, oltre a un giro strano sui campi sintetici, eccetera. No? Uh-huh. Anche questo, secondo me, sarebbe un buon motivo per evitare di diventare presidente della Federcalcio, no? La fedina pedale per me è importante, insomma. Sì. Siamo stati tutta l'estate a dire dobbiamo imitare il modello tedesco. Beh, a me Uri Enes, che ha fatto una cosa normalissima, mi sembra un eroe. Uri Enes in Italia non avrebbe motivo di cittadinanza. Una cosa normalissima, Ulionis magari no, è finito per quello in galera. Non per quanto riguarda Tavecchio, i problemi che ha avuto sono noti, sono pubblici, non ci sono situazioni di ineleggibilità da questo punto di vista. Secondo me lei ha ragione soprattutto sul punto: la forma è sostanza, e in questo momento abbiamo bisogno di forma e di sostanza, cosa che quello che diventerà, a parer mio, ancora il futuro presidente federale non credo possieda. Saverio Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho telefonato per parlare un attimo di Europa League, ma volevo dire una mia parola anche sulle elezioni del presidente. Prego. Federale. Allora, non mi frainteda, non voglio difendere Tavecchio. No, ma mica è un diritto, anzi noi... è un contraddittorio che deve esistere, perché non stiamo parlando del diavolo dell'acqua santa, nessuno è diavolo e nessuna acqua santa. Per un non addetto al lavoro è difficile dire chi può essere il miglior presidente federale. Alla fine questo Tavecchio io non so neanche cosa sappia fare, cosa non sappia fare, quindi è difficile capire dal punto di vista tecnico. Beh, lui ha fatto un eccellente lavoro come presidente della Lega Nazionale Dilettanti, questo è certo. Ok. Però quello che volevo dire è che è chiaro che ha fatto una grossa gaffe, una brutta figura e quant'altro, però o era l'uomo giusto per rilanciare il calcio italiano con percentuali plebiscitarie prima, allora lo è anche adesso, perché una gaffe sì, è una gaffe, è una brutta figura, però voglio dire non incide. Un attimo che mi sento la polizia. No, c'è una sirena qui dietro. Dentro la polizia, mi raccomando, si fermi per parlare al telefono, Dicevo. O andava bene, cioè questa secondo lei questa gaffe non sposta? Per me non lo era neanche prima, più che altro per ragioni anagrafiche, ma mi sembra strano che prima tutti vogliono Tavecchio. Sì, però lei capisce, Saverio, lei capisce che siamo in politica, ancorché sportiva, e come diceva l'ascoltatrice di prima, sottoscrivo, la forma e sostanza. È stata una gaffe che ha fatto rumore di tutto il mondo. In un mondo del calcio in cui Tavecchio dovrà rappresentare o dovrebbe rappresentare l'Italia, quindi secondo me non è qualcosa così che può passare in cavalleria. È stata un'affermazione che tutti conosciamo in una situazione pubblica, in circostanze pubbliche, di fronte a una platea, alle telecamere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, è qualcosa che in politica sposta ed è anche quasi giusto che sia, quasi normale comunque che sia così. Diventa difficile dire quella non cambia niente, se andava bene prima va bene anche adesso, perché non è così. Voleva dire qualcosa sull'Europa League? No? Non abbiamo tempo? Sì? C'è ancora? Saverio? Sente? Sì, dica. Ecco. No, volevo dire che io sono un tifoso del Parma, per cui quando sento Cairo pontificare di questo Torino che ha meritato l'Europa League eccetera, ricordiamoci che c'è una faccenda ancora tutta da chiarire e c'è ancora tra l'altro una tendenza del TAS che stiamo aspettando noi tifosi del Parma. Non so quanto potrà essere operativa visto che ormai la competizione è iniziata, però ecco, vorrei ricordare che per meriti sportivi sarebbe dovuto esserci il Parma. Fa bene a ricordarlo, però siamo anche qui nel campo del rispetto delle regole. Poi se uno dice ok, Parma ha rubato una mela e lo sbattono fuori dall'Europa, c'è chi ruba un palazzo e invece dentro, ma faccio per dire. Però siamo sempre nel campo del rispetto delle regole, per tornare al discorso di Tavecchio sarà anche una frase, ma poi quando cominceremo e cominceremo alla fine di agosto, vedrete subito al pronti via a fare battaglie contro il razzismo a suon di curve chiuse, come potrebbe la Federcalcio avere una voce forte da quel punto di vista in questo tipo di battaglia. 800 24 0024, traffico, poi voglio parlare di un'altra cosa. No, allora voglio dire una cosa. Dilla. Ve la dico? Sì. Sembra che Raikkonen stavolta sia imbottigliato sulla Lecco Colico. Tutti convocati. Intanto vi do qualche notizia di oggi, sempre a proposito dell'elezione del Presidente federale. La FIFA chiede alla Federcalcio di valutare se portare l'affare Tavecchio di fronte all'organismo giudiziario competente prima dell'11 agosto, data dell'assemblea elettiva. E questa, secondo un portavoce della FIFA, la risposta del massimo organismo di governo del calcio mondiale alla lettera della Federcalcio stessa, che riassume la vicenda allegando le dichiarazioni del candidato presidente. Cioè, in sostanza, la FIFA dice alla Federcalcio: va bene, abbiamo ricevuto la lettera, ma adesso che fate? Cioè, cosa fate? Verrà eletto alla presidenza della Federcalcio? Ed è una domanda legittima. Poi l'osservatorio intanto è già al lavoro sulla base del calendario di anticipi e posticipi che sono stati già decisi per la prima giornata, e oltre a questo l'osservatorio ha già anticipato che le partite tra Roma e Napoli, e i motivi li conoscete, si giocheranno di giorno, quindi nessun posticipo o anticipo serale. Allora, ho detto vi volevo parlare di qualcos'altro. Lui ce li ha raccontati per una vita, adesso uno non corre più, l'altro invece correrà per altri 2 anni con la Yamaha. Che fossero diversi si sapeva, ma che tra i due ci sia questo astio che emerge la anticipazioni dell'autobiografia di Casey Stoner nei confronti di Valentino Rossi, autobiografia che uscirà in Italia a settembre. Beh, questo un po' mi sorprende, non tantissimo, ma un po' sì. Ciao Guido Meda. No, ciao a tutti. A me non sorprende. No, ma con toni così no. duri? Con toni così duri, sì. Valentino... Io stimo tutti ma non lui. Stimo tutti ma non lui, parla del lato subdolo di Valentino Rossi, è uno che non ha rispetto per gli avversari, eccetera eccetera, è andato giù durissimo. Allora lui, immagino che tu voglia una mia opinione, sì. Conoscendo i due non mi meraviglia per niente, sono veramente il giorno e la notte. Uno, Valentino Rossi è un pilota che in quel mondo lì si diverte, che in quel mondo lì è diventato sindaco, che non vede l'ora che venga il weekend per andare nel paddock, è uno che sa tutto di tutti, vive quel paesone lì itinerante come se fosse un po' il suo paese. Questo comporta anche forse che sia più attrezzato di potere per certi versi, no? e di carisma, sia perché ha vinto molto e sia perché insomma ce l'ha un po' come dono naturale. Poi che sia un pilota, come secondo me deve essere un vincente, estremamente individualista, su questo non ci piove. D'altro canto, Casey Stoner era l'esatto contrario, un grandissimo manico sulla moto, molto fuori contesto in quel mondo lì, un pilota che tendeva addirittura a somatizzare l'intervista. Certo. Lui pensa, si faceva venire mal di pancia quando doveva fare le interviste con noi. Italiano, tutto d'un pezzo, quasi condannato dal suo talento, eh? Condannato dal suo talento, condannato anche a ritirarsi perché non reggeva proprio la pressione di quel mondo lì, che è fatto purtroppo anche di punzecchiamenti. Cioè, mi meraviglia che Stoner si sia meravigliato del fatto che Rossi, che ha capito che a un certo punto Stoner era il suo avversario più pericoloso, cominciato a tenerlo sott'occhio in tutto, no? Sì, cioè, lo fanno di norma i piloti. Ma certo, no, ma infatti indirettamente sono tre decimi. Ma chiaro, ma indirettamente Stoner, involontariamente, fa un complimento a Valentino Rossi. Nel corso degli anni io e Valentino ci siamo misurati parecchie battaglie epiche, ma ci sono state occasioni in cui probabilmente per invidia o disperazione lui ha provato diverse tattiche poco corrette. Laguna Seca in quella famosa corsa del 2008, no Guido? 2008, Laguna Seca 2008, sorpasso replicato poi lo scorso anno da Marquez su Rossi, sì. La stessa identica cosa, finita però con un abbraccio reciproco tra i due che vivono il moto mondiale in maniera diversa da Stoner. Ora, dal punto di vista formale e rigidamente regolamentare, probabilmente il sorpasso di Rossi al Cavatatti non era un sorpasso regolare, perché c'è stato un taglio. Sì. Però allora non lo fu nemmeno quello straordinario che abbiamo decantato tutti per anni di Alex Zanardi in macchina in Formula Americana qualche anno prima. Non lo sono molti sorpassi che invece vengono premiati, le direzioni gara chiudono un occhio perché sono così ardimentosi, sono un esempio così bello della generosità del pilota che pur di vincere si caccia in un guaio che alla fine ci sta che glielo passi. Certo. Stoner probabilmente un sorpasso così non l'avrebbe mai fatto, perché lui soprattutto è uno che pensa che la regola dice che la pista finisce lì dove finisce il cordolo, io di là non ci vado. Però dire che Valentino Rossi è stato corretto perché ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ma infatti, ma è per questo che ti dico, gli fa involontariamente, indirettamente un complimento, dicendo era disposto a tutto, anche a rischiare e ad andare magari al limite sul filo della pista e del regolamento pur di riuscire a battermi con una moto inferiore. È questo che vero. Ha detto, no? Vero. Però è così che poi dopo vinci, no? Mondiali. Anche così, insomma. Io direi che se vuoi è la faccia bella di questo sport qua, uno sport che ti fornisce due uomini profondamente diversi, anche se poi hanno un punto di contatto che è straordinariamente importante e comune, che è il fatto di mettere in gioco la loro vita tutte le volte che accendono il motore. Sicuro. No? Senti, Guido, sono due idioti, lo dico con simpatia, nel senso che mi piacerebbe tutti questi, Rossi Biaggi, Stoner, Rossi, grandi rivali della storia tua, mi piacerebbe rivederli a 70 anni tutti intorno a un tavolo a ricordare i vecchi tempi. Certo. Si accorgerebbero che quella passione lì che avevano era una saldatura tra le loro anime straordinariamente bene. Il problema è che Marquez invece sta simpatico a tutti, qui proprio punti di polemica non se ne trovano, cioè mentre Lorenzo aveva il suo carattere, Valentino ha il suo, lui è simpatico a tutti, vince sempre, mo che facciamo? Al di là di guardare la Superbike, no, mi sento di guardate la Superbike, è chiaro, a me non dispiace, col Cannibale Sykes. Cannibale Sykes, ecco, sperando che arrivi qualcuno a ridimensionare un po' anche lui proprio per il gusto e il divertimento. Ti dirò che Marquez, un po' alla Rossi se vuoi, è un altro che sta simpatico a tutti, ma che se poi ve lo vai a analizzare nell'economia del weekend al Gran Premio, è un altro bello individualista, è un altro che non cede nulla all'avversario, è un altro che se può punzecchiare punzecchia, è meno bambino, innocente e ingenuo di quello che sembra, per questo è un campione. Guido, in 30 secondi rispondi a questo SMS perché è importante, riguarda il mondo dei motori delle corse in moto. C'è un ascoltatore che scrive: rischiare è una cosa, mettere a rischio gli altri è un'altra. Questa è un'accusa che Stoner fa a Rossi. Sai che è andata via la linea per un istante. Dice l'ascoltatore: rischiare è un conto, mettere a rischio gli altri è un'altra. Può capitare quando il contatto, non so cosa rispondere a questo lettore. Io, ascoltatore, immagino che avrà visto tante gare. Purtroppo ci sono dei casi in cui si arriva al. Bisogna un po' mettersi d'accordo e essere un po' coerenti, perché c'è chi dice, e magari questo ascoltatore è tra quelli, che dicono: ah, il motociclismo non è uno sport per signorine, che bello vedere le gare, no, ti fanno a carenate. Poi, però, se lo fa Rossi, allora diventa un criminale. Ci sono anche quelli che con Rossi ce l'hanno. Ci sta. Sì, sì. Non è che possa avere il consenso universale. Secondo me è vera la via di mezzo, occorre giudicare con un po' di buon senso. Ci sono delle situazioni in cui è vero, metti a rischio te e forse anche un po' l'altro, però non credo sia evitabile. Grazie anche Guido. Anche Stoner l'ha fatto. Ma no, ma chiaro, ma se corri in moto, corri in moto. Non è che. Ma se corri in moto, corri in moto e le corse sono queste qui, è inutile far finta di altro. Grazie davvero, Guido Meda. Sono d'accordo, fammi dire una cosa in 5 secondi. Sono d'accordo che vada massimizzata la sicurezza. Ah, questo è evidente. Sia con delle reprimende ai piloti, quando se le meritano, sia con l'incremento proprio delle misure di sicurezza strutturali dei circuiti. Questo è fondamentale. Ma i piloti non sono stupidi, sanno cosa fanno. Grazie Guidone. Ciao. Abbraccio. Grazie Guido Meda. Luca da Roma, mi spiace, se vuoi ci sentiamo lunedì, tanto siamo qui tutta la prossima settimana ancora ed ogni giorno per tutta l'estate, un'ora al giorno, e poi vedremo di allungarci come sempre. Grazie a Franco Bettanini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in regia, Gianmarco Ferronato in regia, Claudia Schiattone in redazione, mi sbaglio tutti i giorni ma ormai l'avete capito. Beh, ciao a tutti, lunedì alle 2 ci sentiamo.